Vorrei sapere se tu hai mai giocato per esempio a Texas Hold'em, che è il gioco di poker. No, ma io non sono molto attratto dai giochi, perché a parte che perdo sempre, mi piace un po' ma è strano, dovresti invece saper bluffare molto bene nel poker, è importante, è la cosa più banale in assoluto. Come si può cadere nell'inganno? Qui si parla di inganno del gioco. Il gioco è nato per perdere, per farci perdere. Cioè, qui chi è che vince? Non ho mai visto uno che vince. Quando vince poi ripunta. Ma no, si può anche vincere. Sì, barando. Anzi, ho degli amici illusionisti che guadagnano proprio attraverso quello. Quello mi interessa, ma non vedi, si tratta più di gioco. È tutto, no, ma anche proprio perché, insomma, adesso devo dire che il gioco del poker sta così entusiasmando sempre di più. E vecchio vino in botti nuove. Ci sarà anche ancora più possibilità per giocarlo anche negli alberghi. Alessandro Chili, buona domenica. Buongiorno. Alessandro Chili, amministratore delegato di Media Marketing 43, perché all'interno della Borsa Internazionale del Turismo, che ci sarà settimana prossima, la fiera di qui di Milano, RO, ci sarà proprio un momento dedicato al Gaming Tourism Forum, cioè un forum dedicato al turismo per il gioco. Dico bene, esatto, Alessandro? Esatto. Ecco, intanto io prima di entrare nel dettaglio della cosa volevo dire ai primi due ascoltatori che chiameranno l'800240024 adesso avranno due biglietti, ognuno di loro avrà due biglietti per entrare alla BIT, la settimana prossima o sabato o domenica a loro scelta. Fra l'altro il Riposo del Guerriero andrà in diretta proprio dalla Borsa Internazionale del Turismo. Torniamo a noi, Alessandro. Dicevamo, cosa sta cambiando e cosa è possibile fare per chi ama il gioco? Beh, la cosa principale che è cambiata è che l'enorme successo del gioco online ha reso milioni di persone familiari con il gioco e quindi molto più inclini anche a frequentare un casinò quando sono in vacanza, cosa che fino a poco tempo fa era riservata soltanto agli appassionati, mentre oggi sta diventando una forma di intrattenimento come tutte le altre. Ecco, e poi c'è la possibilità di giocare anche all'interno degli alberghi? C'è questa nuova possibilità? Le leggi non è che prevedano gli alberghi in quanto tali, come luoghi in cui si possano giocare, si possono realizzare delle sale gioco, ma secondo le norme vigenti, con le nuove macchine, nuove slot che sono state introdotte a luglio, che consentono vincite molto importanti, del tutto paragonabili a quelle di un casinò, perché si può arrivare fino a jackpot nazionale di 500.000 euro, anche gli alberghi, se hanno le caratteristiche tecniche per poter aprire delle sale separate dalla loro attività di ospitalità normale, possono diventare tutti gli effetti dei casinò automatici, e quindi c'è un grande interesse da parte di molti albergatori, anche catene, perché chiaramente un albergo dotato di un'infrastruttura di questo tipo è un'offerta in più, chiaramente è un'offerta che può e essere poi alla fine molto... si riduce a essere una verità antica, perché io per esempio al sud della Francia, che è ancora sud della Francia, vedi delle cose che appartengono quasi al nostro meridione degli anni 60, nelle piazze si gioca ancora la boule, cioè sono i tavoli con la roulette, quella a nove numeri, e gioca con uno in mezzo alla strada, dice la boule dispensione, la fine, la boule è ancora qua, la gente è una roba proprio, cioè non è nulla su quello che stiamo dicendo, giustamente non è nulla di nuovo, nel senso il gioco è sempre avuto e ritornerà per forza. No, infatti è proprio questa grande passione, perché ormai sono sorti anche molti canali televisivi che non fanno che far vedere partite su partite. E all'interno della Borsa Internazionale del Turismo, da giovedì, lo ricordo, da giovedì a domenica, anche se è aperta al pubblico soltanto sabato e domenica, invece da giovedì agli operatori di settore, ci saranno delle aree tematiche e una sarà dedicata proprio a questo. Anche sabato e domenica si potrà partecipare a questo tipo di forum, diciamo? Sabato e domenica è aperto al pubblico, quindi diciamo, noi abbiamo due aree, una dove sono presenti dei casinò che hanno dei tavoli da gioco. Veri e propri, dove è possibile anche così sperimentare dal vivo? Dal vivo, sì, ovviamente per gioco. Sì, certo. È possibile sperimentare giochi classici, ci sarà una roulette, ci sarà la possibilità di giocare a poker, a blackjack, le solite cose diciamo che possono essere fatte in contesti di questo genere. Chiaro. Comunque molto facili e divertenti. E, mentre nei giorni precedenti avremo due workshop riservati agli operatori e casinò e a determinate categorie di tour operator che si incontrano per affrontare il tema del turismo del gioco. Certo, quindi fare anche delle proposte e dare delle opportunità a chi avesse degli alberghi o delle catene di offrire questo tipo di servizio ai propri clienti. Alessandro Chili, grazie. Grazie. Ci vediamo al BIT, alla BIT anche la settimana prossima, grazie ancora, anzi vi invito. E adesso invece devo stendere il tappeto rosso come sempre, perché parleremo anche dei ciarlatani che esistono nel mondo nel mondo straordinario. Quale? Dell'enogastronomia. Eccoci qua. Ti chiami così tu? Eh sì. Il gastronauta Davide Paolini, buona domenica, ciao. Buona domenica a tutti. Parliamo di ciarlatani in cucina, ce ne saranno una valanga. Ma non solo in cucina, ci sono in cucina, ci sono nelle cantine, ci sono nei laboratori. Beh, è evidente, come in ogni mestiere, come in ogni attività, ci sono le persone molto serie, i professionisti, i professionali, ma ci sono anche quelli soprattutto i taroccatori che sono soprattutto nei prodotti, però sono nei formaggi, sono nei salumi, cioè quelli che magari copiano e mettono sul mercato, che ne so, il lardo di colonnata non fatto a colonnata, formaggi particolari non fatti nelle zone di origine. Scusami, Davide, parliamo anche di prodotti italiani fatti da italiani o da stranieri, perché sai che a volte queste copie, diciamo così, arrivano dall'estero, non dall'Italia, o purtroppo arrivano anche dall'Italia. Ma io direi che i taroccatori veri, quelli che negli Stati Uniti vendono diversi formaggi, diversi salumi con nomi italiani, scimmiottando anche nella comunicazione magari immagini italiane, sì, sono quasi sempre di origine italiana, purtroppo. Ah. È una amara realtà, però, come posso dire, va confessata questa. È evidente che però ci sono le cose che arrivano in Italia, non vorrei dire un luogo comune, ma quante passate di pomodoro sono cinesi, o quanti oli d'oliva italiani, cioè italiani con la scritta Italia, sono tunisini, sono greci, sono spagnoli, quindi diciamo che come c'è un po' di tutto, cioè il ciarlatanismo è presente un po' ovunque, e come ti dicevo in principal modo sono i taroccatori, poi ci sono quei taroccatori di vino, non dimentichiamo che in Italia abbiamo avuto molti scandali, lo scandalo del metanolo in fondo è una sofisticazione, poi fondamentalmente magari non, il vino magari è quello, però c'è una sofisticazione che non lo rende più tale. Prima di passare dei vini, ancora una domanda, scusami Davide, avevo una curiosità, per i cibi ci bastano le etichette o non ci bastano per capire a cosa siamo davanti? No, molte volte non ci bastano, anche perché la cosa incredibile è che noi in Italia stiamo portando avanti un discorso abbastanza diciamo di grandissimo livello, a livello europeo, l'Europa non ci assiste, che è quella di mettere su ogni prodotto l'origine della materia prima, e purtroppo noi siamo in questo momento siamo i più avanzati in Europa, e l'Europa non ci viene dietro, anzi ci ostacola su questo. So. E anche sui sistemi di sicurezza purtroppo noi siamo tra i più avanzati. Il problema è che abbiamo, diciamo, queste cose perfette, però bisogna vedere che se ci sono i controlli, e qui noi siamo veramente molto limitati. Io credo che abbiamo appunto delle cose molto avanzate, dei controlli molto avanzati, però i controlli secondo me non sono all'altezza appunto delle disposizioni che sono state messe. Ecco Davide, tornando invece ai vini, che forse è ancora più difficile difenderci dalla sofisticazione di questi. Il problema sono regolamenti internazionali, perché come tu sai, oggi si può produrre un vino di un vitigno che non ha legami stretti col territorio in Italia, in altri paesi del mondo, e quindi chiamarlo con quello, ad esempio, sì, il Nebbiolo. Ci può essere il Nebbiolo d'Australia o il Nebbiolo degli Stati Uniti o della Napa Valley, non possiamo fare assolutamente niente. Questa secondo me è una truffa in commercio, però è permessa, perché noi non possiamo, oltre l'Europa, oltre la comunità europea, difenderci, questo è il punto principale, quindi ci sono degli ostacoli proprio di poter mettere mano a queste truffe commerciali. Però volevo tornare al vino, cioè sì, il vino, ci sono anche delle truffe commerciali che sono quelle che in un'etichetta c'è scritto Chianti Classico, poi magari dentro i vitigni non sono quelli permessi dal disciplinare, ma c'è di altro per compiacere certi mercati. Diciamo che il caso Brunello di Montalcino è un caso tipico, cioè il disciplinare prevede solo Sangiovese, e poi in realtà si sono scoperti i vini, ma ancora questa è un problema in mano alla giustizia, che hanno aggiunto Merlot, Cabernet, proprio per renderlo un gusto internazionale e poter avere maggior successo nei mercati internazionali. Certo. Questa è una truffa, truffa in commercio, e diciamo che è una truffa, però non è una sofisticazione. Certo, quindi è semplicemente un non rispetto del disciplinare, come invece dovrebbe essere fatto. Senti, ma quindi da questo però è più difficile difenderci, perché è impossibile capire anche dalle etichette che cosa contiene quel vino. Sì, è difficile, molto difficile. Come ti dicevo, sai, se non lo porti in un laboratorio d'analisi anche l'olio è un po' difficile. E il prezzo non è, chiaramente il prezzo non è perché spendiamo di più e siamo sicuri di avere un vino giusto. No, direi di no, però misure di sicurezza ci sono, perché cioè comprare certi vini a 0,50 al litro, sì, okay, comprare un olio a 2,80 euro, insomma, io qualche sospetto lo avrei comunque, anche se magari su un olio da 15 euro probabilmente ci può essere la stessa cosa. Però, certo, però insomma, quando il prezzo è troppo basso un po' l'allarme dovrebbe scattare. Beh, i ciarlatani sono anche tra i cuochi, non dimentichiamo, questo l'abbiamo un po' bypassato. Sono quelli che vantano materie prime di primissima qualità, poi magari le vanno a comprare nella GDO. Lì è ancora più difficile, perché poi sono cotti, e per cui gli alimenti, di conseguenza, come fai ad accorgerti? È possibile, bisognerebbe entrare in cucina e vedere quale olio usano, ad esempio, perché molte volte ci sono molti cuochi che in tavola hanno degli oli straordinari, delle griffe importanti, poi tu vai a vedere in cucina, hanno delle saniche di olio tunisino. Quando ti lasciano, entrare in cucina, perché già quello, cioè, è un problema. Certo, no, ma magari per sbaglio puoi far finta di entrarci, può succedere, insomma. Cerchi il bagno e vai in cucina, succede anche questo. Come sbagliando si impara, come si dice. Infatti cosa stanno preparando. Bisogna imparare anche a riconoscere, infatti certo. Io mi fido sempre dei ristoranti, ce ne sono comunque molti, che se chiedi di poter vedere le cucine ti dicono di sì, quindi credo che questo sia anche una bella iniezione di fiducia che tutti i ristoratori dovrebbero imparare ad avere verso i clienti. Volevo ricordarti che c'è un libro bellissimo di Cataldo, che si chiama Mi fido di te, e dentro ci sono tutte le truffe che avvengono nel settore alimentare, terrificanti, sui polli. Si parla molto di polli morti, di polli malati che vengono restituiti al mercato. E devo dire che questo libro è intitolato Mi fido di te, quindi sicuramente è una cosa da leggere, consiglio, perché è veramente non lo so se dopo si mangia ancora con lo stesso entusiasmo, però sicuramente è da conoscere. Ti dirò che dopo che ho letto questo libro anch'io ho avuto qualche problemino. Ecco, può servire per chi vuol perdere qualche chilo. Grazie certo. Davide, ciao. Bene, buona allora domenica. Guardarsi bene dai ciarlatani. Proprio, grazie, ciao. Ciao, a presto, buona domenica. Il riposo del guerriero. Mi piace la vostra puntualità sulle cose dette. Il libro citato da Paolini è di Massimo Carlotto e Abate. Grazie Serafina. E siamo pronti con il mistero in 24 minuti. Per voi ci sono 1000 euro. Un mistero in 24 minuti. 1000 euro per l'acquisto di libri cartacei ed elettronici su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. La soluzione può essere una notizia della settimana oppure un personaggio del passato, del presente e di fantasia, purché ovviamente famoso. Tutto questo attraverso degli indizi musicali, ma più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. E il primo indizio arriva da Mina. Devo dire che Raul non smette mai di fare tutti i suoi personaggi, non uno. Faccio dei commenti, dai. Esatto, però. Alberto, buongiorno da Brescia. Buongiorno. Ciao Alberto. Buongiorno. Che personaggio era questo? No, nessuno tuo. Mina era. Ah, tu, no. Va bene, Alberto, scusaci, oggi siamo così, siamo un po' ciarlatani, ecco. Questo era il primo indizio, per te ci sarebbero 1000 euro, ammesso che la tua risposta sia quella giusta, se no dobbiamo scendere di... Hai 3 secondi, 1, 2, 3, tempo scaduto. 1, 2, 3, allora scendi. Cosa fai, un altro indizio? Sì, ho una mezza idea, ma non mi convince molto. Allora scendiamo a 500 euro. Sì. Alberto, io credo che insomma questa canzone tu la conosca perfettamente. Credo che sia facile ormai arrivare dove? Alla soluzione, dove non lo so. Sentiamo, era Heroes di David Bowie, per te ci sarebbero 500 euro, Alberto. Scendiamo a 50. Non si fa. No, no, sei ancora a 500. Io rimango con la mia mezza idea. Vai. Che la polemica che c'è stata per festeggiamenti del 17 marzo col presidente della provincia di Bolzano che ha detto che non parteciperà. Ma si risolverà secondo te questo? Alla fine si festeggerà o non si festeggerà? Vuoi fare una previsione? Adesso ne facciamo fare una qui al Mago Ronzo. Attenzione, ecco. A certi livelli medio-alti, sì. Un giorno accadranno delle cose, non l'umanità, che agli altri non stanno ancora. Non abbiamo capito, ma Alberto, quindi secondo te, ho capito la tua risposta, sì, ma volevo un'opinione invece, secondo te si festeggerà o no? Ma secondo me, visto che tutte le feste come andate quest'anno sono di sabato e domenica, si potrebbe anche festeggiare. Tu dici però... ci vorrebbe, così almeno ne inseriamo una che non c'è. Una bella festa, Roverbacco. Siamo a posto. Ciao Alberto, grazie. Grazie, è stato un piacere. Grazie, ci dispiace veramente tanto. No, non si sa, non si sa. Potrebbe anche essere giusta, sì, la risposta. Ci dispiace ma lo stesso. Lo scopriremo al 24esimo minuto. 800 24 00 24. Giovanna da Milano. Ciao. Ciao Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa vogliamo fare? Due indizi li abbiamo già scoperti. Vuoi riflettere attentamente? Io ne sentirei su... un'altra? Allora sentiamo cosa, l'LP però... tutto, sentiamo. Vorrei approfondirla. Bravissima, allora possiamo partire. Non è l'album però, perché questo pezzo cambia. Però al fine si può fare un CD di questi brani. Come no? Certo, chiaramente sì. Questo è un vecchio pezzo, fra l'altro, di un grande come De André. E una canzone che forse avrei anche cantato, perché si cantava con la chitarra molto spesso. Il terzo indizio. Giardi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Tu posi i cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Giovanna, l'hai cantata sta canzone qualche volta? Non la conosco per niente. Ma veramente? Veramente, guarda, di quelle di De André me le ricordo. È una canzone famosissima. Si vede che sei giovane. Ma questa proprio molto giovane. Zero. Giordi. Comunque sì. Penso che sia chiaro adesso. Non lo sai, neanche Raul sa la risposta, no, lo so soltanto io. Anzi, ditemela così, evito di far giusto di torturarmi con la domanda, ecco. E poi prendo, vinco questi 1000 euro. Diciamo, no, lì. Siamo già scesi a 300. A 300, ma allora non li voglio. Allora Giovanna, scusami, è impossibile non ridere quando hai Raul davanti, perché tu non vedi le facce. Giovanna, dovresti vedere anche le facce di Raul per... Ah, sì? Sì, la faccia è sempre quella. No, eh. No. Ma posso andarla a vedere su internet? No, non, cioè, non abbiamo no. La c'è la webcam, ma non però è. Però vendiamo una telecamera che ti facciamo arrivare a casa al prezzo modico di 180 euro, spese postali incluse, che noi ti mandiamo poi metà a noi. Va bene, allora se vinco aspetto anche questo. Sì, guarda, non crederci, io non credo che chiamerei Raul per fare l'imbonitore in televisione con le telepromozioni, perché non so, non venderebbe, non lo so se come funziona. No? Funzioni? Dai, sì. Lasci fare un affare, esatto, puoi comprarti una bella autoradio. Allora Giovanna, che cosa vuoi fare? Cioè la risposta, guarda, la devi dare. Vabbè, io butto lì quella che avevo in mente. Calibra bene le parole. Quello che avevo in mente da prima, a parte De André, ma vabbè. Dimmi. Senti, allora, io direi che... sì? Allora, secondo me l'appoggio di Obama nei sì. confronti della popolazione egiziana per le dimissioni di chiarissimo. Mubarak. Certo, chiaro. Grazie Giovanna. Va bene? Bravissima. Grazie. Ciao, buona grazie giornata. Voi, buona domenica. Forse questa potrebbe essere la risposta giusta o forse no, lo scopriremo più tardi, ma adesso gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Carlo da Pavia. Carlo, ti abbiamo consegnato praticamente la soluzione in mano. Tu non sei è già... che ho molte idee. È possibile fare un riepilogo? Allora, dopo cosa facciamo a scuola qua? No, è possibile. Però Carlo, il riepilogo è possibile, ma a questo punto, se lo chiedi, non puoi chiedere di un altro indizio. Te lo dico subito. O il riepilogo, oppure bene, deciditi. Quindi il riepilogo? Sì. Eccolo qua. L'indifferenza. Era l'indifferenza di Mina, Heroes, David Bowie e Geordi De André. Questi tre indizi, Carlo. Diciamo che ti abbiamo messo la soluzione in mano. Mi ha chiarito molto le idee. Rimango su una prima idea che mi ero fatto. Sì. Anche se, vabbè, penso alla notizia dell'amore bipartisan nunzia De Girolamo e Francesco Boccia. Grazie Carlo. Grazie di cuore. Buona domenica. Ciao. Roberta da Roma. Secondo te come l'ha messo? Io non posso, no, non posso sbilanciarmi. No, io cerco di capire, capisci? Cerco di farmi un po' di... Tu devi usare i tuoi poteri paranormali, posso ovviamente. Posso partecipare? Più tardi. Riepilogo. Senti Roberta. Eccomi qua. Buongiorno. Ciao Roberta. Roberta, attenzione, allora, perché le domande che faremo in questo momento sono importanti per l'andamento. Vai. Roberta, allora, cosa vuoi fare? Allora, cosa voglio fare? Non voglio altri indizi. Io avevo un'idea. De Andrea anche a me ha molto spiazzato. Fuori strada. Spiazzato prima di tutto perché non la conosco e secondo non capivo neanche bene le parole per avere qualche... La catena d'oro. La catena d'oro? No, dico, non sto è dicendo, vero. Non lo so, ma sto parlando. Impiccheranno Geordi con una corda d'oro. Impiccheranno, È un privilegio raro. Ah, privilegio. Ecco, però insomma la canzone è... Non posso dare... Non possiamo aiutarti. Non è che Raul mi può dare un suggerimento. Sì, lo do a te il suggerimento, ma fammi il piacere. Eccolo qua. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Dobbiamo farla breve, penso. Roberta, io ti devo dire, Geordi, bisogna capire il contesto della canzone, l'indizio nel contesto della canzone. Ecco, facciamo così. Appunto. Oh, vai. Oh. Allora. Non conoscendola, non avendo... Vogliamo riascoltarla? Non ho capito nulla. No. Non si può. Tanto penso di capirne ancora meno. Facevo per aiutarla. Senti, io dico quello che avevo pensato, visto che anche quando mandavate i jingle i giorni precedenti. 3, meno 2, Mina. Meno 1, sì, tempo scaduto. I rom. I bimbi rom, l'indifferenza nella loro che morte, c'è stata, certo. Sono i nostri eroi e niente. Beh, ci stanno, devo dire che come risposta ci stanno gli indizi. Non so dirti se è quella giusta. Grazie Roberta. Manderemo il pacco a casa. Buona giornata. Cinzia da Milano. Ciao. Non puoi farmi continuamente ridere. No. Allora, Cinzia, sì. Allora, che cosa vuoi fare? Io ti dico quello che ho pensato, anche perché non credo, Cinzia, che non rispondi, c'entri niente, se sei ignorante come l'altro lasciamo perdere, non possiamo andare avanti così, Lo dico lo stesso. Allora io dico che la cosa delle donne, però non so bene se decidere la polemica sul fatto che bisogna fare la manifestazione oppure la manifestazione proprio che viene fatta. No, beh, donne, allora se la notizia è, la notizia è la manifestazione, insomma, quella di oggi, dici tu? Sì, quella di oggi. Okay. Prendiamo sia perché le donne sono sempre il problema delle donne nell'indifferenza generale, per un giorno potremmo essere eroine, non eroi, ma la catena di catena Geordi? Che vogliono impiccare Ruby alla catena. Mi d'oro. Sembra che i tuoi discorsi filano. Grazie Cinzia, così. Grazie, sei stata chiarissima, grazie. Qui dovrei chiamare Omen, perché visto che si allora, fa... mi sembra che qui non ci siamo con gli indizi, ho sbagliato tutto per Cinzia, brava, complimenti. Però adesso dobbiamo andare avanti e capire. Benvenuto dalla provincia di Foggia. Pronto? Ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, la soluzione è bellissima. Allora vorrei dare la soluzione, ecco. del caso. Finalmente uno che ha la soluzione. Diamo la soluzione. La soluzione è precipizio. Cioè, sarebbe tutto il movimento che è avvenuto lì in Egitto, Mubarak. Grazie, per tutto quello che è successo con le dimissioni. In molti fra l'altro hanno risposto così via SMS, non vale l'SMS, ma certo. Molti così rispondono anche in questo modo. Grazie, benvenuto. Grazie a te. Sono molto vicino, molto vicino. Ciao, grazie. Alberto dalla provincia di Pavia. Sì, ma io parlavo solo della presa di potere, la presa del potere da parte dei militari in Egitto. In Egitto. Grazie. Egitto Verde. Grazie Alberto, anche tu. Prego. Sei stato chiaro, grazie per la tua risposta. Enrico dalla provincia di Viterbo. Beh, non ho la mia idea ormai, magari faccio una. Hai presa un po' larga, Aspetta, un altro indizio vuoi? Sì, sì. Ce la facciamo, sì, ecco il quarto indizio. Lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti. Disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio, diranno che sei vecchio. Eccoci qua, Enrico, era Spalle al muro, interpretata da Renato Zero, la canzone era di Mariella Nava e insomma l'argomento di questa canzone è molto chiaro. Certo. Beh sì, potrebbe essere le dimissioni, cioè dimissioni, la perdita del potere di Mubarak. Tutti lì siete oggi, siete tutti su questo personaggio. Grazie Enrico, ma non è la risposta giusta, mi dispiace. Anche Berlusconi è vecchio. Sì, ma non è, tu dici allora, non è l'unica punto, cosa. Ecco, allora spieghiamo la soluzione perché è finito, credo, è finito il tempo, c'è stato lì. Sì. Voglio vedere se ci avevo pensato anch'io come. No, allora siamo partiti con l'indifferenza e poi gli eroi quotidiani, certo, di tutti i giorni. Jordi era ambientata a Londra, questo l'avevo intuito, mentre attraversavo London Bridge e poi gli anziani. E la notizia era di quella vecchietta, sì, che a colpi di borsettate è riuscita a sventare una rapina in una gioielleria. Il video ha girato per tutta YouTube perché nessuno mentre questi con la mazza rompevano le vetrine, sì, della gioielleria, si vedono perfettamente, sì, nessuno faceva niente, nessuno chiamava la polizia, nessuno, passavano solo la vecchietta è tornata indietro con la borsetta, ha preso a borsettate sti ragazzi che sono scappati, due sono caduti, quindi alla fine li hanno presi. E quindi lei a un certo punto ha detto: qualcuno doveva fare qualcosa. Sono poveri ragazzi che fanno il loro mestiere, andare a disturbarli così, ma lasciali lavorare, portare anche loro a casa i loro companati. Invece alla fine vedi che non ce l'hanno fatta per colpa della vecchietta. Grazie a tutti, ci sentiamo domenica prossima direttamente dalla Borsa Internazionale del Turismo. Adesso ti salutavo bene. Grazie Raul di essere stato con noi. Thank you very much. Tu e tutti i tuoi personaggi, ho ovviamente, non soltanto. Grazie Giorgio De Luca, redazione. Grazie a te. L'assistenza di Margherita Aina e Cameo Lauricella che rideva come un matto in regia. Spero anche voi. A domenica. Io lo sapevo la soluzione, hai visto? Datemi a casa quei 100.000 libri che. Direttamente dalla Bit la settimana prossima. Il vi aspetto. Vecchio, ciao. La catena era normale. Dai.